Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Quando vince chi gioca a calcio battendo chi gioca a calci è sempre un bel verdetto. Questo della Spagna, campione del mondo, era un verdetto annunciato, perché ricorderete che sia i bookmakers sia larga parte di osservatori opinionisti sparsi per il mondo avevano dato la Spagna per favorita sin dalla vigilia, direi anche dall'antivigilia. Il pronostico si è rivelato alla fine talmente esatto che è bastata, secondo me almeno, una Spagna al 70-80%, non di più, del suo potenziale per vincere con merito questa edizione numero 19 del campionato del mondo. 70-80% del rendimento, io direi il 100% dell'autocontrollo nervoso, però, e questo è un grande merito di ieri sera, perché non era facile non cadere nella trappola degli olandesi, non perdere la testa davanti al falletto, al fallaccio, alla provocazione, a quello che cercava palesemente con una strategia studiata a tavolino, anche perché si davano i turni a menare, no? Come avrete notato, non era facile non farsi saltare i nervi e non smarrirsi. La Spagna si è smarrita tatticamente e anche per un periodo abbastanza lungo, anche perché non tutelata da un arbitro di rara mediocrità, che secondo me è sempre stato discretamente mediocre, ma ieri sera si è superato da questo punto di vista. Però alla fine questa Spagna si è ritrovata e direi che ha vinto con merito questo campionato del mondo. Ovviamente, visto che oggi è l'ultima puntata di questa serie speciale dedicata al Mondiale, ovviamente attendo come sempre i vostri interventi e i vostri pareri all'800 24 00 24. Dunque 13 milioni e 453.000 telespettatori ieri sera su Rai 1, con il 60% di share, una percentuale altissima per una finale che non vedeva impegnata l'Italia. Da notare che poi a questo numero già impressionante di suo vanno poi aggiunti i telespettatori di Sky e quelli delle altre emittenti straniere che raggiungono lembi di territorio. In particolare i supplementari sono stati visti da 14 milioni e mezzo di telespettatori, arrivando al 63,5% di share. Qualche numero di questo mondiale. Beh, intanto ce n'è uno che non è lusinghiero per la Spagna, perché è la squadra campione del mondo che ha segnato meno gol nella storia. Pensate che il precedente record negativo apparteneva all'Inghilterra, campione del mondo 66, e al Brasile 94, che avevano segnato 11 gol nella fase finale. La Spagna ne ha segnati soltanto 8 in 7 partite. La Spagna era rimasta bocca asciutta la prima partita, persa 1-0 con la Svizzera, poi ha segnato 2 gol all'Honduras, 2-0, 2-1 al Cile, e da lì in avanti, dagli ottavi alla finale, con nell'ordine Portogallo, Paraguay, Germania e Olanda, ha sempre e soltanto vinto per 1-0. Andiamo avanti ancora con qualche numero. La Spagna ha vinto il premio Fair Play assegnato dalla FIFA, che è un premio che viene basato su riguarda le squadre che hanno giocato almeno 4 partite e si riferisce al comportamento tenuto in campo, quindi le ammonizioni, eventuali espulsioni, eccetera eccetera. La Spagna ha vinto largamente. C'è un record negativo per i gol, per quanto riguarda i gol totali, anche non soltanto quelli della squadra vincitrice, cioè degli spagnoli, perché sono 145 in totale, 2 in meno di Germania 2006, che era il precedente record negativo. C'è un grafico in calando: nel 98 in Francia si segnarono 171 gol, che decrebbero fino ai 161 del 2002, ai 147 del 2006 e adesso a 145. Credo che, ma questo poi sarà oggetto di riflessione, credo che una larga parte di responsabilità venga da questo infame pallone che è stato usato in questo mondiale, che ha sì danneggiato un po' di portieri e quindi favorito dei gollonzi, ma credo abbia soprattutto danneggiato chi tirava, chi crossava, chi cercava di colpire di testa. Anche ieri sera un paio di colpi di testa, soprattutto quello di Sergio Ramos a colpo sicuro, sono probabilmente imputabili in buona parte perlomeno al pallone. Ultimo dato statistico del mondiale: il capocannoniere dei mondiali è risultato Thomas Müller, così ha votato, alla fine ha deciso la FIFA, perché sono stati 4 giocatori ad arrivare a quota 5, e cioè Müller, Forlan, Viglia e Snyder, ma il trofeo è stato assegnato a Müller in virtù dei 3 assist forniti ai compagni, oltre ai 5 gol. Müller ha anche vinto il premio come miglior giocatore giovane dei mondiali in Sudafrica, compirà 21 anni il prossimo 13 settembre. Sentirei subito un paio di pareri di ascoltatori e poi dopo il primo intervallo sentiamo anche l'esperienza di una nottata da movida madrilena in impresa diretta. Antonio ha chiamato da Udine, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Senta, volevo il suo parere su questo mio pensiero. A me pare che, vista l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania nelle semifinali, ma anche qualcosa ieri sera, questo mondiale si è stato caratterizzato da un certo blocco dei calciatori, questa eccessiva paura di perdere, questo non saper rendere quello che potevano anche i grandi campioni, a prescindere dal pallone maledetto, ma non le pare che abbia un po' questa connotazione di meno dominio di se stessi, forse più sfruttati, troppo sfruttati, insomma una qualche indice di una professionalità meno dirompente, meno controllata? Non so, sì, sono abbastanza d'accordo con lei Antonio, non so se dipende però da una professionalità meno controllata o da un livello di stress che è destinato a crescere, cioè io immagino che più il calcio è un affare, e ormai lo è sempre di più un affare, no? E più il carico di pressioni che c'è su chi va in campo sia sempre più alto. Se noi guardiamo, capita ogni tanto, no? Soprattutto in quest'epoca, di rivedere dei filmati storici, quando c'è un'inquadratura delle squadre a inizio partita, non so, l'esecuzione degli inni o queste cose, a me pare che man mano che si va avanti, l'occhio del protagonista sia sempre più sbarrato in primo piano, è sempre più fisso, è sempre più, cioè la paura, se vogliamo, o l'ansia da prestazione o lo stress, mettiamolo come vogliamo, oppure mettiamoci tutti questi ingredienti insieme e probabilmente altri ancora, sono sempre più condizionanti e paralizzanti rispetto a prima. E io credo che dipenda da accresciuti interessi, da accresciuti coinvolgimenti. Stanotte in Spagna c'erano decine di milioni probabilmente di persone in giro per strada, cioè tutta la Spagna per strada, che in effetti non ha chiuso occhio dai Paesi Baschi giù fino all'Andalusia. Beh, insomma, un tempo si festeggiava e questo è l'entusiasmo popolare. Poi c'è ovviamente il ritorno economico, che è tutto un altro paio di maniche. Giorgio, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Io ho seguito la sua prima analisi, appunto, di questo mondiale. Effettivamente sono pienamente d'accordo e sono anche un po' amareggiato per come non è riuscito a giocare la Spagna, ecco, perché effettivamente quest'arbitro qui ne ha fatte di cose del culo ieri sera. Mi viene in mente, appunto, che noi italiani, a parte questo mondiale, ci siamo sempre marcati come dei picchiatori, come dei difensivisti, insomma, mamma mia, questa banda qui, lo stesso Snyder e Robben, poverini, sono veramente scesi, secondo me sono rimasti sorpresi anche loro da come hanno giocato tutta la squadra, la loro squadra, perché veramente è vero che hanno avuto anche due lampi grazie appunto a questo Snyder qui, tra l'altro un mio pupillo, perché sono tifoso interista, però veramente sono rimasto un po' deluso dall'Olanda, veramente, da quest'arbitro. Lo credo bene, cioè siamo tutti rimasti delusi dall'Olanda, perché ieri sera la partita ha rovinato loro, non c'è nessun dubbio, loro e l'arbitro, questo è un dato che mi pare sia abbastanza inconfutabile. Alcuni messaggi tra i tanti. Una vergogna lo spettacolo di scorrettezza della finale mondiale di ieri sera. Riprova del fatto che chi dice che questo è stato un bel mondiale capisce poco di sport in generale. Firmato Ivan da Bassano. Io capisco nulla, caro Ivan, di sport e di calcio in particolare. E continuo a sostenere che è stato un signor mondiale e che la brutta partita di ieri sera è la conferma. Ci ha molto colpito la scorrettezza dell'Olanda, proprio perché finora non era accaduto. In 64 partite di mondiale si è visto giocare a calci l'Olanda ieri sera e direi la Costa d'Avorio nel finale della partita col Brasile, quando ne azzopparono un paio e tra l'altro azzopparono in maniera definita per il conto totale Elano, che sarebbe stato un giocatore molto prezioso, e io personalmente avrei sempre ancora la curiosità di rivedere Brasile-Olanda anche con Elano in capo, non che Elano sia Pelé, ma insomma era una pedina tatticamente molto molto importante. Luis Cabases scrive: viva la Spagna, Cabases già il cognome qualcosa può dire, no? Viva la Spagna che applica il federalismo calcistico, ma non una cosa bieca alla segue nome di un governatore recente del Nord Italia, bensì chi ha di più, come fa il Barça. Questo è federalismo calcistico solidale. Trovo molto, molto bello, delizioso questo messaggio, questa chiave di lettura. Il mondiale anche, favorisce anche i momenti di pazzia, pazzia sana, pazzia, intendiamoci. Per esempio, Franco Piantanida, che voi conoscete certamente come collaboratore di questo programma, come assistente di A Tempo di Sport, è tornato stamattina, l'aria è leggermente stropicciata, perché sabato mattina aveva deciso di andarsene dove, Franco? A Madrid. Buongiorno Gigi. Buongiorno a te. A Madrid perché? Certo, Johannesburg era un po' lontano, probabilmente trovare un biglietto della finale sarebbe stato un problema. Un low cost invece per Madrid, per andare a vivere la finale in mezzo agli spagnoli, era una possibilità. Che esperienza è stata? È stata sicuramente una bella esperienza, è stata una festa della correttezza, per rifarmi alla mail di prima, perché ho visto comunque una festa bellissima. Un attimo, sono un po' emozionato. Dai, sei emozionato? No. Calma, perché no. Rilassati, tira il fiato tranquillo. No, spinto innanzitutto dalla passione, che ho per il calcio, e dalla curiosità di vedere quello che succedeva appunto nella capitale spagnola durante la finale dei mondiali, quella che per loro era una notte vergine, perché insomma non avevano mai vissuta, e magari chissà quando la rivivranno un'altra volta. Ti dirò che te la invidio un po' come esperienza, perché avendo visto dal vivo i mondiali dell'82, io ricordo la passione pazzesca, sfrenata, che gli spagnoli avevano per la selezione, l'ora di allora, no? Perché giocando in casa, certo, c'erano grandi nazionali allora, l'Italia non era quotata, e poi sappiamo come andò a finire. Ma mano a mano che quel mondiale si sviluppava e che la loro grande selezione, con, non so, mi ricordo il portiere Arconada, che sembrava il più grande portiere del mondo, che beccò dei gol veramente da rincorrerlo col bastone, mi ricordo che la loro decepzione, cioè la loro delusione progressiva, era qualcosa di che ti toccava, no? Tale era la passione di partenza. Quindi chissà cos'è stata stanotte. Tu dove l'hai vista la partita? Io l'ho vista a Paseo de Recoletos, che è appunto questa passeggiata, Paseo appunto che significa passeggiata, che collega Plaza de Cibeles a Plaza de Colón, in una delle direttrici principali di Madrid, dove era appunto stata organizzata la grande festa per la finale, mentre per le altre sei partite il maxi schermo e la festa era appunto sotto il Bernabeu. Quindi stavolta hanno traslocato dal Bernabeu al centro storico della città. Sì, perché il Bernabeu era ritenuto troppo piccolo come spazio, e invece questi 600 metri di lungo corso erano abbastanza per contenere le circa... Quindi immagino che non passasse uno spillo, no? No, così, no, no, a esatto. Grandi linee. E da lì in poi il corteo festoso da dove partì? Verso la Puerta del Sol, penso. Appena o verso Plaza Mayor. Appena che Casillas ha alzato la coppa, si sono spostati tutti in Plaza de Cibeles, spostati per modo di dire, perché non ci si muoveva, ci abbiamo messo mezz'ora per fare circa 20 metri. Ah sì? Sì, sì. Ma da aver paura o da... No, io no, ero da solo, col mio zaino, con la mia roba, quindi non potevo perdere nulla, biglietto aereo compreso, portafoglio compreso, ma non ho avuto paura di nessun tipo. Cioè, era una festa, e sembravano piuttosto spaesati. Devo dire che gli italiani sono più professionisti della festa e di questo tipo di... C'erano più improvvisatori, insomma, sì, no, sì, no, sì, come sì. veniva. Sì, beh, sì. Poi tu hai anche visto la parte iniziale della festa, perché per essere qua stamattina evidentemente... Sì, sì, l'ho vissuta tutta da sabato, diciamo dall'attesa di sabato, insomma sì, già comunque gli spagnoli andavano in giro con magliette di tutti i giocatori già da sabato, e non se la sono tolte, non se la toglieranno probabilmente fino a... E mi dicevi che non c'era traccia della scaramanzia che per esempio c'è da noi, perché già prima loro erano così, cioè hanno cominciato a festeggiare sabato. Sì, sì, sì, loro, soprattutto la domenica mi hanno stupito i caroselli di macchine, che poi durante la notte si sono interrotti perché la gente comunque occupava e ostruiva tutto tutte le strade, ma nel pomeriggio imperterriti insomma senza paura contro la scaramanzia è una cosa per noi italiani insomma, impensabile. Infatti certo. Io gli dicevo ma siete matti e loro infatti loro incuranti con bandiere, macchine, erano sicuri di ser campion, erano tranquilli, sicuri, e gli è andata bene ed è finita così. Franco, grazie di questo racconto. Questa è la prima parte di una fiesta mobile, come l'avrebbe chiamata Hemingway, che si è sviluppata in questa nottata, che sta andando avanti oggi in attesa del ritorno dei campeones da Sudafrica, e poi stasera ricevimento, mi pare di aver capito, sempre che il cerimoniale non cambi, prima da Zapatero, poi dal re e poi questo torpedone che li porterà in giro dovunque. Sarà la prima festa, quella diciamo centralista madrilena, poi seguiranno quelle evidentemente seguiranno e accompagneranno insieme quelle diciamo più periferiche di tutte le altre grandi città spagnole. Antonio ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno, mi lasci gioire perché i miei nonni sono da Barcellona, ho seguito quasi in diretta per radiofonica e col telefono con una mia nipote che abita ancora a Barcellona. Sì. Niente, io ho 52 anni e ero fatto una promessa di non mettere più piede su uno stadio quando all'epoca del liceo andai a vedere un spareggio di una squadra di Mestre per andare in C2 e successe di tutto per andata e ritorno in treno così. Quest'anno ho avuto la sfortuna di accettare un invito di andare a vedere una partita di calcio di seconda categoria, mm-hmm. Perché ci giocavano figli. Era una cosa atroce. A parte calcio, c'era calci. C'era gente, cioè l'età media era di 30 anni, cioè con gente che ormai non credo che passeggiava così. Secondo me, per risolvere il problema della crisi del calcio italiano, bisognerebbe mettere un limite di età serio, circa 22-23 anni, su questi campionati, perché se uno ha voglia di giocare a calcio vado a fare se sì, sì, Antonio, certo, è vero, questo vero, insomma, comunque avrebbe un senso e avrebbe una logica. Sì, l'unica cosa di positivo che avevo intenzione di portare mia figlia, ma me ne sono andato via schifato perché c'era un arbitrino di 22 anni che era offeso dal primo a metà del secondo tempo, certo. Ho detto, sono da via perché è un problema serio schifato. È un problema serio, Antonio, l'attività giovanile nel calcio italiano e non purtroppo da oggi. Credo che questa sia anche una grande vittoria di Del Bosque, scrive Mirko Capacci, colui che ha inventato o forse perfezionato il 4-2-3-1, ma adesso al di là dei moduli io credo che sia la vittoria di una persona come Del Bosque. Prima ancora che di un allenatore, la rivincita di uno che era stato cacciato dal Real perché non era abbastanza glamour per Florentino Perez, ma Florentino Perez, come ricorderete, non riteneva abbastanza glamour dal punto di vista calcistico anche Snyder e Robben, no? Lo scorso anno era così poco glamour David Villa, quello che adesso ha comprato il Barcellona, perché era basso, perché faceva vendere meno magliette di Benzema, e quindi dato che aveva speso soltanto 200 milioni di euro fino a quel punto, il buon Florentino ci aggiunse quelli che servivano a Benzema. Leggo un breve ritratto su Repubblica di stamane di Del Bosque, 60 anni, figlio di un ferroviere antifranchista che finì per diventare una colonna del Real Madrid, beffa del destino, scrive Andrea Sorrentino, proprio perché era il club più franchista di tutti, il Real. Però visse la contraddizione nel suo stile, ostentando i capelli lunghi, che adesso non ci sono più, e nonostante tutto diventando il cocco di Santiago Bernabeu, centrocampista di lotta e di poco governo, oltre 400 presenze nella Liga, appena 18 in nazionale. La conclusione di questo articolo mi ha emozionato sinceramente, perché scrive Andrea Sorrentino: Vicente non porta bene la cravatta, ma domani, anche se era sempre indossata al mondiale, parentesi, ma domani sfilerà a Madrid da trionfatore e porterà anche il figlio Alvaro, 15 anni, affetto dalla sindrome di Down. Prima del Sudafrica gliel'aveva promesso: se tutto va bene Alvaro, sfileremo insieme per la capitale. Alvaro è pronto e non vede l'ora. Leonardo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto i complimenti a lei perché per me è il pallone d'oro del giornalismo sportivo, sicuro. Vabbè. Niente, volevo dire una cosa. Io ieri ho assistito alla finale in una saletta di un campeggio lì al Lago d'Orta. Sì. Ed ero insieme a una ventina di tifosi olandesi con le loro belle magliettine arancioni e tutto quanto. sono rimasto stupito da loro come seguivano la partita, perché in tutta la partita non ho mai visto nessuno né alzarsi sulla sedia, né gridare, né fare niente, tutto quanto. Si sono alzati alla fine della partita battendo le mani, con un applauso, ma spontaneo, tra di loro. Cioè io ci sono rimasto veramente male, perché noi italiani forse alla fine di quella partita avremmo detto altre cose, non lo so. Invece anche il CT dell'Olanda, dopo qualche protesta di troppo, insomma, credo causata, imputabile giustamente allo stress alla componente nervosa che non può non esserci al massimo livello in una finale di campionato del mondo, ha riconosciuto per primo la legittimità della vittoria degli spagnoli. Scrive Federico D'Alessandria: se Webb, l'arbitro, avesse espulso nel primo tempo, tutti parleremmo di match rovinato. Penso sia chiaro che serve più che mai studiare un cartellino arancione. E il cartellino arancione dove porterebbe? Cioè, lo lasci in campo o lo cacci? Uno che fa un fallo, a parte il fatto che ieri di arancione c'era poco, secondo me un cartellino rosso per Van Bommel prima, e probabilmente non sarebbe arrivato quello De Jong subito dopo, ma eventualmente anche a De Jong dopo, perché il fallo più plateale è stato evidentemente il suo. Ma in ogni caso non è un arbitro che rovina una partita se espelle un giocatore così scorretto che si macchia di falli di quel genere. Sarà il giocatore che rovina la partita facendosi cacciare, non certamente l'arbitro. Stefano, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Anzitutto volevo fare i complimenti per la pacatezza e la classe che usa quando risponde a certe domande, per le quali effettivamente bisogna mettersi le mani nei capelli, e ammiro il suo modo di trattenersi, diciamo così. Tornando ai mondiali, volevo sapere la sua opinione circa il comportamento di Monsieur Blatter nel momento della premiazione. Era già bad in position rispetto invece al 2006, quando per ovvi motivi, diciamo, che con l'Italia non si è comportato in questa maniera, si è reso latitante, diciamo. E poi l'ultima cosa, volevo sapere se secondo lei è giusto che la RAI come servizio pubblico ci metta in campo alla sera personaggi tipo Giampiero Galeazzi, oppure signor buona camicia a tutti, un ospizio fatto proprio, e non potrebbero metterci dei signori giornalisti. Ma Stefano, lì sono scelte editoriali. Le scelte editoriali della RAI sono discretamente discutibili, non da questa edizione di Notti Mondiali, credo, no? E nemmeno nella programmazione ordinaria, quindi ben al di là di quella sportiva. I gusti sono gusti, e come tali non andrebbero discussi. Poi invece credo sia ampiamente lecito discuterli, così come le simpatie e le antipatie. Che Blatter non abbia grande simpatia per l'Italia, cordialmente ricambiato, è anche questa una cosa abbastanza notoria. Certo, rimane un'incoerenza di fondo, perché se nel 2006 la scusa che questo signore assunse per spiegare la mancata presenza alla premiazione, cioè il fatto di aver delegato Johansson, presidente allora dell'UEFA, perché in campo il mondiale se ne erano giocate due squadre europee. Ma insomma, dato che queste due qui non erano esattamente asiatiche o sudamericane, avrebbe potuto valere lo stesso principio. E quindi A meno che il malore accusato da Platini due giorni fa non abbia consentito a Platini di essere presente. In effetti, tanto inquadrato non lo si è visto. Insomma, detto questo, che l'Italia non sia simpatica a Blatter è un dato di fatto che possiamo farcene una ragione, credo anche. C'è Andrea collegato da Novara, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ieri, se non ricordo male, lei ha tessuto le lodi dei Normal Ones come allenatori di questa nazionale, e credo che abbia fatto indirettamente un complimento a tutti i novaresi, perché l'allenatore del Novara, Serre, è soprannominato dall'inizio del campionato il Normal One. Uh-huh. Questo come inizio. Il mio intervento invece voleva essere un altro. Io credo che le prime tre squadre classificate, soprattutto la prima e la terza, rappresentano quello che è il calcio più contemporaneo: l'assenza di una punta centrale o prima punta, come diciamo noi italiani, giocatori che si scambiano molto più spesso i ruoli, un calcio più moderno, rappresentato dal Barcellona, giusto per citare una squadra importante. Eppure mi sembra che quando Lippi ha presentato lo stesso tipologia di calcio sia stato un po' sbeffeggiato, anche lui con una punta molto mobile, tanti altri giocatori che avrebbero potuto arrivare in soluzione da gol senza essere qualificati con il ruolo di punta o di attaccante vero e proprio. E idem anche per Maradona, il quale mi sembra aver presentato una nazionale assolutamente moderna, eppure adesso tessiamo le lodi di Spagna e Germania, ma sbeffeggiamo un po' l'Italia e l'Argentina. Per forza, perché queste sono costruite col cemento, non so come dire, quelle con la sabbia, l'Argentina sicuramente con la sabbia, l'Italia no, l'Italia era costruita sui reduci, sui combattenti reduci, che quindi insomma, no, non erano più particolarmente in grado. Cosa potremmo sentire a questo punto? Che mi pare che il collegamento con Sudafrica. No, cioè, allora Fabio Tavelli, buondì. Eccomi. Scusa, eccomi, non ho visto. È l'ultimo giorno dopo una nottata mondiale, insomma, non avevo visto sul display il tuo nome già brillantemente inquadrato. Allora, due o tre domande per concludere questo lungo mese abbondante, alla vigilia della tua ripartenza, questa sospirata, credo, per l'Italia. Oltre ai regali per Alice e Vittoria, per i tuoi due gioielli di casa, e Laura naturalmente, la moglie è la terza, che discorso, è il terzo gioiello. Cosa c'è in valigia dopo 40 giorni di Sudafrica? Ma Gigi, c'è la consapevolezza di essere stato in un posto che non potrò dimenticare, non lo potrò dimenticare perché mi era stato dipinto in maniera eccessivamente negativa. Ci avevano detto di non portare le famiglie e forse abbiamo fatto bene in questo caso, perché poi sarebbe stato difficile riuscire ad avere un po' di tempo anche per gli affetti oltre che al lavoro, ma tutto il resto è stato a parer mio eccessivo, nel senso che poi a qualcuno sono capitate brutte avventure e questo non è un posto sicuro, intendiamoci. Adesso però ti sto parlando da un quartiere che si chiama Melrose Arch, dove siamo venuti a pranzo anche per salutare un po' di colleghi, non solo italiani ma anche certo, stranieri, per dirci forse arrivederci al Brasile 2014 o forse semplicemente addio, è stato bello. Trovo che sia un quartiere molto europeo, molto tranquillo, dove evidentemente non c'è quella tensione sociale che ci avevano dipinto. È chiaro che ci sono dei quartieri, dei posti di Johannesburg, ma così come di Cape Town, di Durban, di Bloemfontein, dove è molto pericoloso andare, ma questo credo accada in qualsiasi città europea. No, ma anche sì, in qualsiasi città. Certo, anche italiana, non perché, c'è dubbio, anche italiana. Perché in queste stupende trasmissioni Rai, di cui appunto alcuni ascoltatori ogni tanto tessono elogi sperticati, non so se avete sentito quelli di prima, ma insomma ci siamo capiti, tutta questa chiamiamola banlieue, questi sobborghi di Johannesburg, e non solo sono stati sviscerati con servizi appositi, sottolineando questo e quest'altro ancora. Leggevo l'altro giorno un critico televisivo che diceva: ma visto che sono abbastanza comodi loro da Roma, non hanno mai provato a girare per qualche borgata lì intorno, giusto per la completezza dell'informazione. Non cambiamo discorso, perché poi credo che il discorso sia lo stesso. Quando all'indomani in una finale di campionato del mondo, quando appunto, come tu dicevi, ci si saluta, no? Anche tra tutte le persone con cui questa avventura si è condivisa, immagino e spero che non sia un congedo analcolico il vostro. No, guarda, non voglio fare pubblicità, ma la bollicina è francese e di grandissimo livello. Onestamente va anche detto davanti a testimoni che siamo stati praticamente rinchiusi nel broadcast center dove abbiamo speso pochissimo, ma perché giustamente i prezzi erano abbastanza calmierati, insomma, siamo arrivati all'ultimo giorno, l'aereo parte questa sera, quindi tra l'altro è stata anche l'occasione per salutare un po' di amici spagnoli che non sono nemmeno andati a dormire. E bisogna oggi si sta. E i saluti e i congedi vanno fatti con le maiuscole, come si deve. Io l'ultima domanda di questa estate, le prossime poi saranno settembre, è questa: tu hai seguito per Radio 24 il mondiale coreano e giapponese del 2002, per Sky sei stato in Germania Germania nel 2006 e adesso ancora con Sky sei stato in Sudafrica. Tre cartoline, cioè, ma tre differenze tra queste esperienze vissute. Allora Gigi, la prima cosa è il grande privilegio di averli potuti vivere e questo non lo dimentico mai quando mi capita, ultimamente molto poco, ma per scelta professionale mia, di girare l'Italia o di girare il mondo, non mi dimentico mai il privilegio che queste aziende mi hanno dato e che quindi Radio 24 in primis mi ha fatto seguire le Olimpiadi di Sydney nel 2000 e i mondiali del 2002 in Giappone e Corea, così come Sky mi ha fatto seguire i mondiali in Germania e i mondiali in Sudafrica. Detto questo, che ripeto non dimentico mai, il mondiale in Giappone e Corea è stato un'avventura, nel senso che andavo da rappresentante di un'emittente che non aveva i diritti di trasmissione, in questo caso radio, e quindi è stato per me molto complicato, nel senso che ho dovuto un po' organizzarmi da solo, ero da solo, ricordo come fosse ieri il viaggio a Sapporo per vedere Italia contro Ecuador, quei sei cambi di treno col treno Shinkansen, ricordo la partita di Oita contro il Messico, ricordo la partita di Daejeon contro la Corea del Sud e ricordo ancora parola per parola quello che il direttore Zamboni mi disse dopo la partita persa contro la Corea del Sud, e cioè che il mondiale con l'uscita dell'Italia per noi si poteva considerare abbastanza concluso. Il mondiale del 2006 è stato diverso da questo, perché nel 2006 mi sono un po' diviso tra il broadcast center di Monaco di Baviera e le partite, ho avuto anche qui il privilegio di poter raccontare dal vivo una gara degli ottavi di finale tra Svizzera e Ucraina, finita tra l'altro ai calci di rigore, di andare a Norimberga, di andare a Lipsia, di andare a Colonia, di girare un po'. Questo mondiale è stato diverso perché praticamente l'ho vissuto solo a Johannesburg e mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone che vivono qui e che da domani mattina non vivranno più l'atmosfera del mondiale e non saranno più con noi, ma che credo hanno loro arricchito noi e noi in un certo senso arricchito anche loro, ma non ti sto parlando economicamente, ti sto parlando dal punto di vista umano e sociale. Questa è una terra che davvero vale la pena di venire a conoscere, non solo per la natura ma anche per la capacità delle persone di sorridere, che credo ogni tanto farebbe bene anche a noi ricordare. Impariamo un po' di più a sorridere perché siamo davvero dei fortunati e se sorridono loro noi abbiamo il diritto e il dovere soprattutto di sorridere almeno il doppio. Diciamo. A maggior ragione. Fabio, A maggior ragione. Un grazie lungo 40 giorni da me e da tutti gli ascoltatori, un avviso per i naviganti, eventualmente di bollicine, cioè, siamo discretamente dotati anche a queste latitudini. No, non c'è dubbio, poi tra l'altro qui hanno, il problema di qui è che hanno dei vini rossi veramente pesanti, perché siamo a livelli di 14 gradi, dai 14 gradi in su, quindi il consiglio è se venite in Sudafrica restate sulla bollicina bianca. Detto questo Gigi, il ringraziamento a te perché è stato davvero un piacere poter parlare tutti i giorni con te, è un privilegio per me avere appunto l'onore della tua amicizia e anche della tua professionale. Siamo andati già avanti. Siamo avanti con le bollicine. Siamo avanti sicuro, perché sento troppe maiuscole. Sta per partire l'aereo. Un abbraccio a tutti e ci vediamo. Grazie. Quanti messaggi oggi, più ancora più del solito. Due contigui, nel senso che sono arrivati uno dopo l'altro. Allora, uno è firmato Massimo Caponi che scrive: a inizio partita ero per l'Olanda, dopo 5 minuti e di caccia all'uomo sono passato alla Spagna. Massimo, io credo che questo cambio di casacca teorica astratta abbia riguardato molti neutrali, no? Come in fondo credo fossimo più o meno tutti ieri sera, perché in effetti così è, condivido in pieno. Invece Mauro scrive: il primo a essere cacciato doveva essere il solito Puyol, ma come sempre per non rovinare la partita si è rovinato il campionato del mondo. Mauro, ho paura che il calcio non sia esattamente la sua destinazione d'uso ideale. A proposito degli intenditori, dal blog che tengo su Sole 24 Ore ho ripescato un lettore, ascoltatore di nome o che si firma Mimmo, che aveva scritto esattamente 2 mesi fa: Italia con 2 soli giocatori eccellenti, vabbè, c'era una lunga disamina sull'Italia. E poi le ultime parole erano queste. Dopo queste considerazioni ribadisco: Italia fuori al primo turno, partenza subito in salita, pareggio sofferto col Paraguay all'esordio e poi il baratro. Mie favorite la Spagna. Beh, insomma, direi che questo mimo, rispetto a quello di cui ho appena letto il messaggio che andava cacciato Pujol per primo, qualche sintonia con il calcio in più direi che ce l'ha. Potremmo sentire a questo punto, no, un attimo di pazienza per Antonio dalla provincia di Monza, perché questo è il momento del sembra ieri. Oggi Nicola Filippone, per ragioni professionali, non è riuscito a registrare, cioè, ci penso io direttamente, ma facendo però partire la sigla. Sembra ieri. 12 luglio 98, a Saint-Denis, la Francia batte 3-0 il Brasile con doppietta di Zidane e gol di Petit e conquista il suo primo e per ora unico titolo mondiale. Zidane è il settimo calciatore capace in una doppietta in una finale mondiale dopo Colaussi nel 34, Piola nel 38, Ran 54, Pelé Vavà 58, Kempes 78. L'ottavo doppiettista sarà Ronaldo nel 2002, ma Arst nel 66 segnò addirittura una tripletta. Fin qui il puntuale ricordo di Nicola Filippone su questa giornata, sul 12 luglio. Però ieri sera si è giocata una finale che era l'11 di luglio, si è giocata e l'ha vinta pure la Spagna. Insomma, qualcuno ricorderà che l'11 luglio dell'82 in Spagna era successo qualcosa di vagamente suggestivo. E allora, come ho già fatto ieri sera, vorrei farvi riascoltare la voce di un personaggio non esattamente calcistico che raccontò all'epoca come mai aveva perso un pochino la Trebisonda a ciascuno dei tre gol italiani. Vediamo se riconoscete questa voce che arriva davvero da un'Italia di altri tempi. Io a ogni gol che segnavano non stavo seduto come voleva il protocollo. Io mi alzavo e mi scatenavo ad applaudire, mentre, ripeto, il re di Spagna applaudiva un po' di nascosto perché c'era Smith tutto nero in volto perché stava perdendo la squadra tedesca. All'ultimo gol, al terzo, ho preso un abrivo che, se non stavo attento, andavo giù dal parapetto e mi spaccavo la testa. Era la voce di Sandro Pertini, ve l'ho detto, un'altra Italia. Colaussi segnò due gol nel 38, non nel 34 per la precisione, scrive Federico D'Alessandria, ha perfettamente ragione, tirerò le orecchie a Nicola, ma me le tiro da solo perché avrei dovuto correggermi io stesso. Antonio, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno, signor Gigi, buongiorno. Grazie. Niente, volevo chiedere a lei, che è un esperto, se si ricorda a memoria due squadre in una finale di campionato mondiale che giocano senza centroattacco, scusi un po' diciamo l'antichità della mia affermazione, ecco, senza centravanti. Beh, l'Italia nel 94 mi pare proprio di potermela ricordare a grandi linee. Due le squadre, cioè, perché vedevo che Villa aveva una posizione esterna e Van Persie non lo considero un centravanti, ecco. Diciamo, ambedue le finaliste, ecco, se lei si ricorda. No, le ripeto, io ricordo una delle peggiori finali della storia, che certamente fu Italia-Brasile nel 94 a Pasadena, con nel Brasile c'era Romario e Bebeto, nell'Italia ricordo un attacco sconclusionato oltre ogni limite, insomma, ma anche per la presenza di Baggio, che non avrebbe dovuto giocare perché non stava in piedi, insomma, per mille e una ragioni, per il fatto che si giocò a mezzogiorno, per il fatto che c'erano 40 gradi e un tasso di umidità spaventoso. Quello è stato il peggior mondiale che si ricordi. Da un punto di vista statistico lei ha ragione, comunque l'assenza di due punte centrali, o meglio la presenza di due punte centrali atipiche contemporanee in una finale mondiale non ha molti precedenti. Tenga però conto che Villa, sì, Van Persie è un centravanti, non dico d'accatto, ma insomma un centravanti di ripiego, però gioca così anche nell'Arsenal. Villa un altro anno nel Barcellona giocherà lì, quindi non sono centrattacchi, ecco, come potrebbe dire lei, pescando nel repertorio un po' antico, ma che siano, possano essere punte centrali, insomma, mi parrebbe abbastanza di sì. Tommaso Foggia. Sì, salve dottor Garanzini. Io volevo fare una considerazione, diciamo, un po' sportiva sullo sport spagnolo in genere. Cioè io ho visto che è evidente a tutti che la Spagna in questi 10 anni ha cresciuto una generazione di ragazzi dove hanno trionfato un po' in tutte le categorie, quindi parlo del basket, del calcio, del ciclismo. Nel frattempo noi in questi 10 anni abbiamo cresciuto una generazione di Grande Fratello, Veligno, di urlatori televisivi, insomma. Ognuno ha i campioni che merita, ecco. Penso che la vera crisi è quella nostra più che della Spagna, ecco. Grazie. Sì, beh, effettivamente messa così non è male. È un'analisi insomma, presa da, che parte da un'angolazione un po' diversa dal solito, ma è indubbiamente molto molto molto carina. Luca Migliori mi fa notare da Vignola, provincia di Modena, che ultimamente eliminare il Brasile non porta buono, perché nelle ultime edizioni in cui è accaduto, nel 90 l'Argentina eliminò il Brasile e perse la finale con la Germania. Nel 2006 la Francia ha perso la finale dopo aver eliminato per l'appunto il Brasile. Nel 2010 è toccata l'Olanda eliminare il Brasile e perdere la finale. Nel 94, 98 e 2002 il Brasile invece è arrivato in finale. Quindi, secondo Luca Migliori, per l'appunto, mettere fuori gara il Brasile non è il massimo, non è garanzia di successo, cosa che invece fino a prima negli anni 90 era il passaporto spesso e volentieri per vincere il mondiale. Per esempio all'Italia nell'82 accadde esattamente così. C'era Paolo Corleoni in regia, c'era Flavio Suardi in redazione. Io ringrazio davvero tutti gli intervenuti, e un grazie lungo un anno a questo punto, perché con oggi chiude questa edizione, diciamo pure speciale, di A Tempo di Sport in occasione dei campionati del mondo, e quindi per quel che mi riguarda ci risentiamo con comodo con l'avvio del prossimo campionato. Buon pomeriggio, grazie a tutti.